la nuova occupazione di Acquaticella per Mobility sta all'interno del percorso del Radical Housing Project che aveva preso io di casa in via Raimondi 41. Purtroppo all'interno di questa occupazione occupata nel discorso, per tutte le famiglie non sono state trovate delle soluzioni, solamente per alcune che hanno potuto transitare verso una casa popolare, una casa di transizione, e invece per quattro nuclei familiari purtroppo non c'è stata la possibilità di avere una soluzione degna che potesse dare continuità lavorativa e didattica ai bambini. Così l'intento nostro è di continuare questa trattativa con l'amministrazione comunale per trovare una soluzione degna per tutti i nuclei familiari. L'urba di via Raimondi era che sono 750.000 euro stanziati per trasformare quegli alloggi in alloggi popolari o con la transizione abitativa. Il nostro chiaramente intento non era bloccare quei lavori, anzi, per la prima volta dei fondi pubblici vanno nella direzione giusta, quello che come movimento per il diritto abitare diciamo e per cui lo siamo, e quindi abbiamo deciso di trasblocare. Abbiamo definito la strategia della Lumaca, in quanto siamo portati dietro la nostra, il nostro caracol e l'abbiamo trasferito all'interno degli spazi di via Corticella. Quindi insomma anche in via di Corticella si dà una risposta anche attraverso l'autorecupero? Esatto, un altro immobile vuoto, abbandonato, lasciato in cura, l'abbandono, in questo caso all'eroina, abbiamo trovato all'interno degli spazi degli appartamenti ben diversi a livello strutturale, anche dall'altra però erano abbandonati da diversi anni. Questo invece abbiamo voluto dimostrare, lo dimostreremo tra due giorni, rinviteremo tutte quelle che state giornalistiche, fotografi, chiunque a dimostrare cosa l'autorecupero può fare per questa città, come pratica che per noi stiamo lottando perché venga riconosciuta anche a livello legislativo come una pratica efficiente ed efficace per sistemare il grosso patrimonio pubblico ancora lasciato all'incuria, ancora lasciato all'abbandono e che invece potrebbe diventare una risposta alla straordinaria emergenza abitativa che scopre Bologna in questi anni. Quindi sì, sarà stato autorecupero, siamo già all'interno di tutti gli appartamenti, le quattro famiglie di Roldani sono già trasformate in casa accoglienti, mancano gli ultimi dettagli, ma ormai possiamo dire che l'autorecupero e le skill che sono state acquisite in questi ultimi anni dal Movimento per il diritto all'abitare sono ormai pratica, certe consolidate per trasformare luoghi vecchi abbandonati in case accoglienti. Spesso, diciamo, da parte delle istituzioni la risposta è quella dello sgombero, in questo caso come via Raimondi, insomma, era nata anche un'interlocuzione, no? Esatto, sì. Per un'interlocuzione aperta che ha portato alla risoluzione del problema abitativo per quattro nuclei familiari. Purtroppo le tempistiche, ma soprattutto anche in questo momento il definanziamento del sistema welfaristico, l'abbondanza purtroppo gli sfratti che stanno continuando ad assanigliare la nostra città, sfratti prevalentemente per finita locazione, l'arrivo di una nuova ondata migratoria che ha portato nella nostra città migliaia di rifugiati richiedenti in Italia, ha portato naturalmente a una mancanza di alloggi di transizione. In questo momento sono già terminati non più le disponibilità comunali, la mancanza di case popolari che non permettono di transitare da tutti i percorsi di appoggio e supporto all'abitare di questi nuclei familiari verso una casa popolare, quindi c'è un blocco in questo momento. Questo blocco non ha permesso per questi quattro familiari di ottenere in tempi tecnici per poter far partire i lavori degli alloggi che potessero definire e ridefinire il loro stato abitativo. Quindi questo ci ha permesso di fare dei passi avanti sicuramente nella trattativa aperta, ma che però purtroppo ha costretto le famiglie a fare questo nuovo passaggio di occupazione in un nuovo immobile. Certo. Quindi noi siamo ancora qua, siamo aperti, speriamo che la trattativa possa continuare e possa portare una soluzione definitiva per questi quattro nuclei. Dall'altra noi siamo pronti a riconsegnare le chiavi di un alloggio che prima di proprietà dell'ASL, prima vuoto abbandonato, in appartamenti che potranno essere messi immediatamente a disposizione per l'emergenza abitativa dopo il progetto di autorecupero attivato.